Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Ad Amsterdam con Marta Morazzoni. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Oggi destinazione Paesi Bassi, in compagnia di Marta Morazzoni. Per l'esattezza, stiamo per arrivare ad Amsterdam. Amsterdam è la capitale e la maggiore città dei Paesi Bassi nella provincia dell'Olanda settentrionale. Il comune di Amsterdam ha circa 750.000 residenti di oltre 170 nazionalità, mentre la popolazione che risiede nell'area metropolitana è di circa 1.450.000 persone. Amsterdam è la città più popolosa del paese. La sua densità di popolazione e di tutta l'Olanda è tra le più alte del mondo. Detta la città delle palafitte, Amsterdam è costruita interamente sull'acqua dei suoi canali, che sono più di 1000, attraversati da 600 ponti in pietra, che uniscono più di 90 isole. I quattro più importanti sono il Singel, lo Herengracht, il Kaisergracht e il Prinsengracht. Dal 2010 sono patrimonio dell'umanità UNESCO. Amsterdam è un grande centro finanziario, un notevole polo industriale ed è anche la città delle biciclette, che sono oltre 550.000 con oltre 400 km di piste ciclabili. Com'è cominciato l'amore di Marta per questa città? È cominciato in una strana maniera, è cominciato per un suggerimento che veniva da molto molto lontano, veniva addirittura da Marcel Proust. Nella ricerca del tempo perduto, Marcel Proust parla del pezzettino di quadro più bello del mondo. Si tratta della Veduta di Delft, Jan Vermeer, ho imparato col tempo a pronunciarlo correttamente, è il nome dell'artista. Il quadro si trova in realtà a Den Haag, quindi non in Amsterdam, però sono 40-50 km da Amsterdam e ovviamente nel mio primo viaggio alla ricerca di questo quadro perduto mi sono poi spinta fino ad Amsterdam, dove c'era il resto o una piccola parte del resto del lavoro di Jan Vermeer. Quindi l'affezione alla città è cominciata per questo messaggio molto molto remoto che mi ha conquistata e affascinata subito. La ricerca del tempo perduto e la ricerca del quadro perduto. Motivazioni interessanti che fanno presagire una visita della città sulle orme dell'arte. Tra l'altro devo dire che poi per me si è allacciata una storia particolare, perché dalla vista della Veduta di Delft al Mauritshuis dell'Aia è nato poi per me l'idea del racconto della ragazza col turbante, per cui veramente si è incrociata una storia molto molto coinvolgente. E questa storia ovviamente ha coinvolto Amsterdam. La città mi ha affascinato subito perché è una città d'acqua ed è una città estremamente concreta. So che si parla tanto di Amsterdam come della Venezia del Nord. Di Venezia del Nord è piena l'aria, Stoccolma, Amsterdam, quant'altre non saprei dire. Però non è affatto una Venezia. Amsterdam ha un carattere rispetto a Venezia, un carattere che qualche volta nelle cose che io ho considerato ha fatto un po' arrabbiare i veneziani. Insomma, Amsterdam è una città che va avanti continuamente e sistematicamente. Venezia è un meraviglioso gioiello incastonato e un po' immobile. Poi quello che sarà nel tempo lo vedremo. Mentre Amsterdam cresce. Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou tulpen uit Amsterdam. 1000 gele, 1000 rode wensen jou het allermooiste wat mijn mond niet zeggen kan. Zeggen tulpen uit Amsterdam. Amsterdam è la Venezia del Nord, anche se Marta ci tiene a sottolineare cosa le differenzi. La città italiana è un gioiello immobile. La capitale olandese, invece, non fa che rinnovarsi e crescere. Forse è un po' quello che voleva dire Montesquieu. Preferisco Amsterdam a Venezia, perché ad Amsterdam si può avere l'acqua senza essere privati della terra. Arte e architettura. una prospettiva totalmente nuova della città, dove la prostituzione è regolamentata, le droghe leggere sono legalizzate, ma dove tolleranza significa da sempre anche produrre personaggi del calibro di Spinoza, Rembrandt, e accogliere nuove visioni nella sua inarrestabile voglia di crescere. Mi colpisce il fatto che nel 1970 c'erano due edifici che segnalavano la presenza dell'arte in Amsterdam, il Rijksmuseum da una parte e lo Stedelijk dall'altra, e un grande prato che li collegava con il Concertgebouw, che era il luogo della musica. Tempo 30 anni, e questo prato è stato rinfiorito, rinverdito con il Museo Van Gogh e con un'ulteriore protuberanza del Museo Van Gogh, che è servito alle esposizioni e ai momenti più particolari, a quelli che noi chiamiamo eventi nella storia dell'arte e nel percorso dell'attenzione all'arte dell'Olanda. E poi è nata la vicenda di Renzo Piano. Renzo Piano ha fatto questo affascinante lavoro del Nemo, il grande museo della scienza e della tecnica, affacciato sull'acqua, la nuova sede della biblioteca di Amsterdam, un altro luogo molto pulito, molto nitido, nulla che, come dire, rompa o dirompa nello scenario della città, ma dice di questa città qualche cosa della sua voglia di crescere, della sua voglia di continuare, di espandersi e di rimanere comunque fedele a se stessa. Just a pattern of sunlight on a building, just a flash in the window I was passing, just a frame in the movie I remember, Amsterdam. Just the sound of a wheel in the gravel, just a click. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Ad Amsterdam con Marta Morazzoni. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Marta Morazzoni è ad Amsterdam con me, o meglio, io sono ad Amsterdam con Marta Morazzoni e con il suo bagaglio culturale, storico, artistico, che mi fa sentire così al sicuro da inutili cliché sulla città dei quartieri a luci rosse o dei coffee shop, proiettandomi ben oltre. È curioso il fatto che nelle aree dei cinque canali storici, quelli che rappresentano appunto il percorso architettonicamente più bello della città e più fondante della città, succeda spesso di vedere la gente che è seduta sulla porta di casa, mette fuori due sedie, un tavolino, mangia, beve lì, fa una sorta di stranissima vita di cortile a cui noi non siamo più abituati, che non riconosciamo nelle nostre città, dove invece c'è un anonimato più esplicito. Non lo so da cosa dipenda questo, non lo so se dipenda dal carattere più particolarmente aperto e colloquiale degli olandesi, forse dovrei conoscerli meglio per poterlo dire, se dipenda dal loro bisogno di aria e di luce. Io devo precisare che vedo questa città sostanzialmente in estate o perlomeno in fine primavera, inizio estate, quindi quando il clima, se non è completamente bizzarro, concede davvero tanti momenti e tanti aspetti all'aperto. E allora penso che dopo un inverno che è veramente inverno, l'ho visto una sola volta in vita mia, un 8 di dicembre indimenticabile per il gelo e per i canali che davano già segni davvero di gelarsi, ecco, dopo questo lungo inverno la voglia di aprirsi, la voglia di uscire, di spalancarsi deve essere evidentemente un dato congenito nella mentalità degli amsterdamesi. E questo porta anche a quel bisogno di luce che si vede nelle loro grandi finestre. Questo è un rapporto interno-esterno molto particolare della città. Una città che ha una riservatezza notevole, prosegue Marta, e nello stesso tempo una città dalle cui finestre si può guardare ed essere guardati. Un rapporto osmotico tra esterno e interno totale. È una società che si muove moltissimo e qui devo dire che entro io in relazione con la mia idea di movimento, che è terribilmente impopolare in Italia e che è la bicicletta. Non lo so quanto incide il fatto che io ami tanto la bicicletta e la consideri non un oggetto turistico ma un mezzo di trasporto, quanto incida questa mia passione nella simpatia e nell'immediata familiarità vissuta con la città di Amsterdam, dove la gente va in giro in bicicletta comunque perché quello è il modo in cui ci si sposta, perché quello non è lo sport della domenica ma è la realtà quotidiana di chiunque abbia bisogno di muoversi. La città delle bici. Nessuna città come Amsterdam può vantare di essere la capitale mondiale delle biciclette. Le piste ciclabili sono comparse circa 50 anni prima rispetto alle altre città europee. Marta mi racconta di questo con una certa soddisfazione, perché qui ci si muove pedalando per le strade, sapendo che se ne ha il diritto, sapendo che non si è oggetto di aggressione di sorta, semmai il contrario. Stiamo per tuffarci nel mondo della musica con Marta. E musica in questa città per me è anche il Bed Inn di John Lennon e Yoko Ono all'Amsterdam Hilton Hotel. Certo che per la mia compagna di viaggio volare più in alto è una sciocchezza. E così da una stanza d'albergo eccoci catapultati al Concertgebouw. È una città che ha tanti altri aspetti che io ho amato nel corso del tempo e con cui sono diventata familiare. Per esempio la musica. Allora, devo dire che io qui non conosco compositori olandesi, però conosco tanti esecutori olandesi. Col Concertgebouw è nata, per quanto mi riguarda, una frequentazione assidua. Tutte le volte che andiamo ad Amsterdam andiamo a sentire un concerto. Devo dire che ci ha anche legati affettivamente il fatto che a lungo Riccardo Chailly sia stato il direttore principale dell'orchestra del Concertgebouw. Io non conosco affatto Riccardo Chailly, però è un direttore italiano, un direttore che mi piace molto, quindi sapere che questo pezzo d'Italia era lì a condurre una delle orchestre più belle del mondo e in una delle sale dall'acustica in assoluto migliore del mondo mi ha fatto sentire sempre molto fiera da un lato e in compartecipazione con questa realtà. D'altro canto devo citare un libro che è uscito molto di recente, proprio legato al mondo della musica e al mondo di Amsterdam, che è Nella casa del pianista di Jan Bockard, l'ha pubblicato Iperborea, in cui si racconta la vera vita di un pianista russo fuggito dalla Russia nel 1976, vissuto ad Amsterdam, nella zona del Jordaan, che è uno dei quartieri più affascinanti della città, e lì morto nel 1988 di AIDS. Nel leggere questo libro mi sono davvero ritrovata e nelle strade e nelle ambientazioni sia umane sia musicali che questo libro racconta, come dire, un altro pezzo di me che si è trovato a interagire con questa realtà amsterdamese. Un libro dove ritrovarsi, viaggiare con gli scrittori, varcare i confini attraverso la lettura, non ci sono limiti al viaggio dell'immaginazione. A maggior ragione se si è supportati, come nel caso della Murazzoni, da un'esperienza diretta nei luoghi raccontati tra le pagine lette. E poi ancora l'arte. Se parlo di arte, ovviamente ritorno al mio punto di partenza, al mio Vermeer originario, anzi Vermeer, a questo punto diciamo le cose come stanno, che in Rijksmuseum ha tre oggetti affascinantissimi da proporre: la donna che legge la lettera, la stradetta e la lattaia. Io credo di avere davvero intrecciato una relazione personale con questi tre quadri, tanto che per un caso molto fortunato la casa che mi ospita quando vado ad Amsterdam si trova a 35 metri dal Rijksmuseum, quindi è un attimo uscire ed è un attimo andare a vedere queste cose, ma tutte le volte è come andare a visitare un amico, sapendo già la strada per arrivare a quella peculiare sala, sapendo che ci trovo anche, come dire, una sorta di discrezione turistica. Per quanto Vermeer sia ormai diventato uno dei pittori più noti al mondo, rimane sempre come dire, una figura un pochino più riparata rispetto anche alla grande folla che per esempio assedia la Ronda di notte, che è l'altro gigantesco capolavoro rembrandtiano della città. E su Rembrandt sono ancora molte le cose che Marta mi vuole dire. Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je eigenlijk wel eens moeten doen. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Ad Amsterdam con Marta Morazzoni. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Suona ad Amsterdam con Marta Morazzoni, al termine di un concerto alla Concertgebouw. Ci siamo messi sulle orme di Rembrandt. L'arte, in fondo, è uno dei motivi per cui alla mia accompagnatrice piace particolarmente questa città. Ed è in un certo senso il fil rouge che stiamo seguendo per conoscerla meglio. A proposito di Rembrandt, eccoci arrivati a una sorpresa. E qui veniamo ai fantasmi di Amsterdam, perché Amsterdam per me è una città davvero piena di fantasmi. Rembrandt è uno di quelli. Un fantasma perché l'ha vissuta, pur essendo veniva da Leida, però in Amsterdam ha vissuto praticamente la parte più importante della sua vita, dalla sua primissima maturità fino alla morte. Ad Amsterdam ha anche vissuto il suo momento di massima fortuna, anche economica. Aveva un atelier meraviglioso nel quartiere ebraico della città, un atelier, una casa molto bella, una casa che oggi si visita e che conserva ancora tanta parte della vicenda di Rembrandt, soprattutto per la sua parte di collezionista. Si portava a casa le cose più incredibili, più assurde, da un enorme guscio di tartaruga a teste di antichi romani, insomma cose che gli ricordavano evidentemente viaggi altrui che lui non aveva mai fatto. Alla seconda parte invece della vita di Rembrandt, che si è svolta al Jordaan. Il Jordaan, una volta quartiere operaio, oggi pieno di atelier, ristoranti creativi, bar alla moda. È qui che si è rifugiato Rembrandt dopo il tracollo della sua fortuna. E qui, in quest'ambito molto ristretto, tra gente molto povera, ha prodotto l'ultima parte delle sue opere. Al Jordaan c'è un mercatino che si svolge quasi quotidianamente, un mercatino, una sorta di mercatino delle pulci, dove mi è capitato davvero, camminando, muovendomi con una certa curiosità e devo dire anche con un certo distacco e sospetto, mi è davvero capitato di pensare che il fantasma di Rembrandt fosse ancora lì in giro a cercare di catturare quelle curiosità che oramai tenuto con la borsa stretta da suo figlio Tito, che non gli permetteva più di comprare nulla, andava a cercare di comperare quelle cose a poco prezzo che avrebbero potuto ricostruire una sua idea di collezionista un po' balzano, un po' bizzarro come era stato. E accanto, sempre nell'area non lontana dal Jordaan, c'è un altro fantasma che mi emoziona molto, che è il fantasma di Anna Frank. E qui devo dire che ci ho messo molti anni prima di andare a vedere la casa di Anna Frank. Chi passa accanto a questa casa vede regolarmente una fila di persone in attesa, una fila lunga tra l'altro, perché c'è una notevole attenzione attorno a quello che è rimasto del famoso alloggio segreto. Io me ne ero tenuta distante per tanto tempo, intanto perché il diario di Anna Frank per me era un libro. E io tendo a pensare che un libro sia di per sé una realtà perfettamente compiuta e individuata, che non ho più voglia di andare a vedere o sondare altrimenti che non nelle pagine. E quindi lasciavo perdere. I've got to get out of this hole. It's on your side, it's on your side now, not pushing you down and all around, it's no cause for concern. Al 263 del canale Prinzengracht c'è la casa di Anna Frank, un luogo ormai meta del pellegrinaggio di più di 1 milione di persone ogni anno. Anche Marta, dopo una prima esitazione, ha ceduto e c'è andata. L'emozione è stata grandissima. Devo dire, la paura della delusione da un lato, d'altra parte anche, come dire, la paura di un impatto emozionale tanto più forte. Poi sono stata persuasa, ma dopo anni e anni, ad andare a vedere questo alloggio segreto, e in effetti è una cosa che vale la pena di fare. Vale la pena di fare perché c'è la sensazione nell'assoluta nudità con cui questo museo è stato costruito. Non ci sono orpelli, non c'è nulla che non risponda davvero al vuoto che l'assenza di queste persone ha lasciato in questa casa. È una casa vuota. E il vuoto significa qui c'è stato qualcuno, ora non c'è più nessuno, e il più nessuno che viene segnalato qui è il risultato di una colpa. Come può non venire in mente un passo del diario? Quante cose mi vengono in mente di sera quando sono sola, o durante il giorno, quando devo sopportare certa gente che mi disgusta o che interpreta male tutte le mie intenzioni. Perciò finisco sempre con ritornare al mio diario. È il mio punto di partenza e il mio punto di arrivo, perché Kitty è sempre paziente. Le prometterò che nonostante tutto continuerò a fare la mia strada e a inghiottire le mie lacrime. Quindi c'è davvero un'emozione e un senso anche di profonda meditazione che prende chi entra a vedere questa casa, che dà l'idea di come questa città sia stata profondamente vessata dalla realtà nazista, ma vessata fino al punto di arrendersi alla realtà nazista e da parte di qualcuno forse anche consegnarsi al mondo degli occupanti senza più opporre resistenza. Peraltro, piuttosto dall'altra parte della città c'è invece un piccolissimo museo della resistenza olandese, molto poco visitato, devo dire, frequentato magari soltanto da chi è andato a cercare la conseguenza di questa casa di Anna Frank, che dice come invece anche lì ci sia stata una resistenza molto, molto importante, molto segreta, davvero segreta quasi agli stessi abitanti della città, con i suoi martiri, con le sue vittime, con i suoi eroismi minori, minuscoli, eroismi di cui non si parla più, ma che rimangono a documentare la voglia di tanta gente di non cedere, di non arrendersi. Viene in mente di nuovo una frase di Anna Frank, che tra l'altro descrive molto bene lo spirito olandese di fronte alle ingiustizie. Chi è felice farà felice anche gli altri. Chi ha coraggio e fiducia non sarà mai sopraffatto dalla sventura. Tra l'altro devo dire che c'è anche un'altra testimonianza molto bella, un'altra sequenza di documenti filmati molto belli che si trovano in un edificio che è stato a lungo una grande banca amsterdamese e che oggi rappresenta un po' l'archivio della città. Qui dentro ci sono documenti filmati che appartengono, diciamo, dagli anni 10 in avanti, a raccontare la storia di Amsterdam, a raccontare visivamente questo mondo. E a dirci come anche nei momenti oscuri tanta parte di questa città abbia esercitato una resistenza straordinariamente coraggiosa, anche contro le violazioni fatte al loro piccolissimo quotidiano, per esempio il fatto che i nazisti avessero sequestrato le biciclette e questo e le radio, ovviamente la radio perché era il veicolo di comunicazione, soprattutto con l'Inghilterra dove la regina d'Olanda si era rifugiata in esilio e da dove mandava messaggi ancora di incoraggiamento ai suoi concittadini, e le biciclette perché voleva dire veramente tagliare le gambe a questa gente. She's back from Amsterdam. Down, and I think the journey did her well. Her face has lost its touch, the telltale signs of loneliness inside. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Ad Amsterdam con Marta Morazzoni. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Amsterdam, città di grande storia, arte e musica, oltre che grande esempio di tolleranza. Sono qui con Marta Morazzoni e dopo un giro sui ponti, tra i suoi canali e le bellezze architettoniche, rigorosamente in bicicletta, siamo arrivate al 263 del canale Prinzengracht, dove c'è la casa di Anna Frank. È venuta automatica una riflessione sull'assedio nazista che ha tolto alla popolazione la radio, ma soprattutto le biciclette, per limitarne la libertà. Ecco un aneddoto davvero commovente. Tanto che mi aveva molto colpito il racconto fatto da un amico olandese che diceva che quando nel 1984 la nazionale d'Olanda ha battuto la nazionale tedesca ai mondiali di calcio, credo che fosse il mondiale di calcio, gli olandesi, i tifosi olandesi erano tornati a casa con questo grande striscione che diceva: nonna, ti abbiamo riportato la bicicletta, che era questa piccola forma di vendetta oramai solare, per così dire, perché i tempi non erano più quelli della ferocia di allora, ma insomma dicevano che questa bruciatura era stata davvero pesante. E per tornare all'archivio di Amsterdam di cui parlavo prima, qui ho visto un altro elemento che mi aveva profondamente commossa, un resoconto di una denuncia fatta alla polizia di Amsterdam di Anna Frank, 12enne, che denunciava il furto della sua bicicletta. In qualche modo questa città ha avuto davvero, come dire, come filo conduttore questa dimensione di bici, questo bisogno di avere sempre un'autonomia di spostamento. Forse questo bisogno di crescere, di muoversi, di essere sempre in trasformazione, che contraddistingue Amsterdam, come ci ha raccontato fin qui la Morazzoni, trova la sua simbolica incarnazione nella bicicletta. Perché, come diceva Einstein, la vita è come andare in bicicletta. Se vuoi stare in equilibrio, devi muoverti. E infine Amsterdam, in qualche modo centro di un piccolo mondo che si raggiunge così facilmente in 100 modi. Parlo di un piccolo mondo che è il mondo delle città, da Utrecht a Delft, ad Haarlem, ai musei sparsi in giro per questa nazione tutta così prossima, tutta così ragnata e vicina alla sua capitale. E penso in modo particolare a una delle esperienze più divertenti, che è quella della visita al museo Kröller-Müller, che si trova in un grandissimo parco e che raccoglie tanta parte dell'opera di Van Gogh. In qualche modo, come dire, i tre pittori che hanno fatto davvero la dimensione dell'Olanda sono stati Rembrandt, Vermeer e Van Gogh nel corso del tempo. A Van Gogh è destinata anche questa una sezione estremamente affascinante del Kröller-Müller, questo museo che si trova in aperta campagna, in un'area che dà la sensazione di essere davvero, chissà perché, in prossimità del mare, perché è terribilmente sabbioso, eppure è nel centro del paese. An de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart, voor altijd verpand Amsterdam vult mijn gedachten. Als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes avonds, laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdamse te zijn. Ormai è finito anche questo viaggio. Tutto è partito da un libro, Alla ricerca del tempo perduto di Proust, e da un quadro di Vermeer che Marta Morazzoni voleva andare a cercare. Per chiudere il cerchio, dopo avermi parlato dei tre grandi pittori che hanno fatto grande l'Olanda, Vermeer appunto, Rembrandt e Van Gogh, Marta decide di tornare alle esperienze di lettura. Queste sono, come dire, le cose che per me hanno fatto di questa città, di questa realtà, una dimensione amica. Sono tante, sono fatte di piccolissimi segni, sono fatti di momenti e di rincontri, sono fatti anche di esperienze di lettura e di letteratura. Io sono convinta che gli scrittori siano davvero loro il grandissimo veicolo di conoscenza. Sicuramente cito quello che amo di più e quello che mi ha veramente fatto da guida in questo mondo, che è Cees Noteboom. Lui vive ad Amsterdam, ha scritto di Amsterdam forse il libro per me più profondo e più affascinante, che è Rituali, un libro che ci fa percorrere questa città da un punto di vista, come dire, quasi di sguincio, mai direttamente nel cuore della città che il turista conosce, ma in una dimensione molto più riservata, molto minimalista per certi aspetti, la dimensione che considera anche gli altri che fanno Amsterdam, i cittadini di questa città, la gente che ci passa. E insieme a Nuttebum, un scrittore che in Italia è credo molto noto, molto conosciuto, ce n'è un altro che invece ha un destino minore, più, come dire, più complesso, e si tratta di Multatuli. Ha un nome molto curioso questo signore. Edward Howes Dekker, questo è il suo vero nome. Scrittore famoso soprattutto per il romanzo satirico Max Havelaar, in cui denuncia gli aspetti più crudeli del colonialismo olandese. Ed è con una riflessione anche su questa parte meno felice della storia d'Olanda e della città che Marta vuole concludere questa magnifica gita. Quando la prima volta l'ho visto scritto mi sono sforzata di pronunciarlo in olandese, poi ho capito che era un nome latino. Significa "ho molto sofferto". È uno scrittore che ha scritto un unico romanzo e curiosamente non ne ha mai letto uno in tutta la sua vita. La sua biblioteca è enorme, ma contiene solo libri di economia, di sociologia. È un uomo che appartiene alla metà dell'Ottocento, arriva fino alla fine dell'Ottocento, e ha scritto un libro di denuncia violentissimo contro il colonialismo olandese, quindi contro tutto il male che l'Olanda, società così per bene, così autorevole, ha fatto nel mondo delle Indie orientali dove ha spadroneggiato. È un altro pezzo della conoscenza della storia dell'Olanda e anche della storia di Amsterdam. Dicevo prima, per me è stata definita la città del desiderio. Mi piace da morire anche con questi suoi limiti, ma mi piace conoscerla anche là dove di lei so le parti meno affascinanti e meno accattivanti. Voglio salutare questa instancabile guida e la città della tolleranza nella quale mi ha condotta con la massima più famosa di Multatuli, valida per ogni paese e ogni epoca. La missione dell'uomo è di essere umano. Ora Marta Morazzoni è in libreria con La Nota Segreta, edito da Longanesi. Dal porto d'Amsterdam, gli animali che chantano, le rêve che au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts.